l'estate è finita, l'autunno che avanza, novembre inoltrato, splende il sole in città. Magica quiete, la mente in vacanza, un lampo di genio mi illuminerà. C'è data shock, a confronto non è niente limonata, cia cia cia. C'è data shock, questa volta son finito negli abissi del trash. C'è data shock, se la sete non perdona una bevanda ci consola. C'è data shock, c'è data shock, c'è data shock, c'è data shock, c'è data shock, c'è data shock, c'è data shock. Ne bevo bottiglie, ormai vedo verde, non mangio nemmeno, bevo solo cedrata. Dipingo la gioia, abbasso la noia, io danzo nel vento, io sono contento. Brividi di bollicine verdi colorate fanno a gara arrivando lassù. Fiumi di cedrata, io ci voglio navigare, io ci voglio impazzire fino al punto di affogare. Lassù, lassù, lassù, lassù. C'è data shock, a confronto non è niente limonata, cia cia cia. C'è data shock, questa volta son finito negli abissi del trash. C'è data shock, se la sete non perdona una bevanda ci consola. C'è data shock, c'è data shock, c'è data shock, c'è data shock, c'è data shock, c'è data shock, c'è data shock, c'è data shock.